spiegarlo è un po' difficile, provarlo è già più semplice. Cosa si prova in un abbraccio? Trovarti un po' difficile, cercarti è già più semplice. Ti vedo in tutto ciò che faccio. Potranno cambiare le stagioni, cambiare moda nei colori, ma sempre lì rimani. Potranno cambiare le stazioni, posti vecchi e volti nuovi, ma sempre lì rimani tu. In un abbraccio ti dico quello che non so e sento quello che non ho, tutto in un abbraccio. Racconto quello che vorrei, la semplicità di quello che sei. Ricordo ancora il giorno in cui ti ho incontrata, c'era il sole che brillava, era una bella giornata. Ero una frana, fu una cosa strana, lì tutto cominciò con un semplice saluto. Felice come un bimbo per averti conosciuto, ero lì per chiederti soltanto un aiuto. Ho dato molti abbracci a tante persone, ma non tutti provocano la stessa emozione. Parlando sottovoce scoprici poco a poco, e proprio poco dopo il mio numero ti ho dato. Forse non mi scriverà, lo ammetto, l'ho pensato, ma appena entrato in casa un tuo messaggio mi è arrivato. Oggi ogni cosa mi sembra sia cambiata, vedo ogni cosa come non l'ho mai osservata. Dopo quella sera arrivano i primi messaggi dove ci confidavamo tutti i nostri disagi. In un abbraccio ti dico quello che non so e sento quello che non ho, tutto in un abbraccio. Semplicità di quello che sei. Ne ho fatto di cazzate, lo so, e non me ne pento. Sono errori che ormai mi ricordo a stento. L'importante è che sei rimasto sempre accanto a te, sopportando i tuoi momenti che capivi solo te. Il tuo sorriso mi accarezza, ne sento l'ebbrezza, e nei momenti di tristezza trovo coraggio nel tuo sguardo e nelle tue parole, tanto caldo come quando tu mi abbracci il cuore, solo tu. Ti ringrazio per tutto quello che sarà, quello che accadrà, so che non basterà, perché quello che io provo è un sentimento nuovo che si possessa in me. Occasioni che affronto senza testa, ma io ti voglio e basta. Il tempo mi parla del nostro vissuto, mi piace, mi schiaccia, per il momento ti tengo tra le mie braccia. In un abbraccio ti dico quello che non so e sento quello che non ho, tutto in un abbraccio. Racconto quello che vorrei, la semplicità di quello che sei. Potranno cambiare le stagioni, cambiare moda nei colori, ma sempre lì rimani. Potranno cambiare le stazioni, posti vecchi e volti nuovi, ma sempre lì rimani tu. In un abbraccio ti dico quello che non so e sento quello che non ho, tutto in un abbraccio. Racconto quello che vorrei, la semplicità di quello che sei.